vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. E benvenuti tutti quanti, sono le 21:19 minuti primi, siamo in ritardo, ma siamo su This is not an exit, Radio Città del Capo. Come tutti giovedì sera, con un po' di ritardo, tutti hanno parlato di David Bowie, quest'anno, ahimè, ci ha lasciato, anche se non tutti lo sapevano. Buonasera, dottor Scarpa, buonasera, dottor Corrias e buonasera, Matteo. Allora, ragazzi, non ridete, però effettivamente io non lo sapevo, ma perché, cioè, io arrivo da un periodo abbastanza complicato, ecco, quindi, cioè... Sei stato super impegnato e ti sei perso che qualcuno ci ha lasciato, tipo David Bowie. È morto anche Prince? E questa l'ho saputa una settimana fa, però ero convinto fosse tipo una cavolata. Invece, cioè, ma sta cosa qui di David Bowie adesso mi inquieta, perché... Ma è successo da tanto sta tragedia. Ma quando è successo? 3 mesi fa? A gennaio. Adesso magari gli ascoltatori e le ascoltatrici pensano che è una buttata. Invece no, ma Nicola è davvero così. Garantiamo sulla genuinità del personaggio. Portate pazienza. Ma tanto ci conoscono che siamo belli freschi. E comunque, noi partiamo come al solito nel nostro periodo, c'è poco da fare. Non vi raccontiamo il Bowie più celebrato, quello del periodo berlinese, che poi non so quanti lo conoscono, ma comunque... Probabilmente ancora meno conoscono il Bowie di questi anni. Noi parliamo sempre tra l'88 e il 93, che furono gli anni della grande crisi di David Bowie. Praticamente sparì o comunque si eclissò dalle scene discografiche per parecchi anni. Sì, all'inizio volontariamente decise di fare un passo indietro e inizialmente suonare unicamente il basso in un gruppo in cui non aveva alcun potere gerarchico, i Tin Machine. Era semplicemente un componente del gruppo. Poi la voglia di primeggiare come leader tornò fuori, e unita anche allo scarso successo commerciale dei due dischi in studio dei Tin Machine, decise di riprendere le redini del suo progetto solista e ispirato anche da una rinnovata serenità. Il 24 aprile del 1992 si era sposato con la supermodella Iman e quindi una ritrovata serenità unita anche a una ritrovata ispirazione portarono alla composizione di questo disco Black Tie White Noise, che uscì nel 1993 sancendo il 5 aprile sancendo il ritorno discografico di David Bowie. We'll be right back. Beh, li abbiamo evocati e questi erano i Tin Machine. Non so se chi di voi, gentili ascoltatori e ascoltatrici, li abbia in mente, li abbia mai sentiti. Ebbene, questo nell'89 era David Bowie, che dopo l'album Never Let Me Down e un gigantesco, anzi direi faraonico tour, lo Spyderglass Tour, dove aveva fatto realizzare una struttura a forma di ragno come palco, costata miliardi di lire all'epoca, aveva un tour management con 150 persone a seguito, proprio per roba da faraone. Di cui parlò anche Andrea Pazienza nel fumetto, la Proliseide. Eh sì, perché Andrea Pazienza andò a vedere lo Spyderglass Tour. Sì, in Beh. Mezzo a una tela di ragno, col ragno è comparuto David Bowie tale e quale come di solito, cioè alto, rosso e vestito di rosso. Della serie, se volete andare sul nostro blog, ci dimentichiamo sempre, si chiama thisisnotanexit.altervista.org, c'è il suddetto fumetto di Andrea Pazienza. Comunque, questi erano i Tin Machine, che poco avevano a che vedere con il pur polimorfico David Bowie, uno che aveva negli anni cambiato forme e stili almeno 5-6 volte. Ebbene, qua sembrava che un po' per gusto suo, un po' per sfregio alla critica che lo stava demolendo ormai da 2 o 3 album, insomma, aveva raggiunto una fase di bassa di popolarità, soprattutto critica ma anche commerciale, notevole, nonostante il successo di pubblico dello Spyderglass Tour, ma si sentiva, come dire, un po' sottovalutato, e a quel punto probabilmente tirò i remi in barca e fece qualcosa per sé, ma neanche questo, come dicevamo prima, ebbe poi il successo desiderato. Quindi Radio Città del Capo 96.4, no, 96.250, 94.7. Oggi David Bowie che insomma ci fa compagnia dopo la sbornia di tutti, insomma, no? Io ho ascoltato questo pezzo, io ho ascoltato quest'altro. No, dopo tre mesi ci ripresentiamo a ricordarlo, il buon David Bowie, con un album che sicuramente non è tra i più famosi, perché insomma, a parte la trilogia berlinese, a parte le comparsate insieme a Freddie Mercury e quant'altro, questo album Black Tie White Noise è il 18° tra l'altro album in studio del buon David Bowie. Un album abbastanza intimista, perché comunque c'è il pezzo Jump Day 6, che è addirittura la traccia dedicata al fratello morto suicida nell'80 per il dopo il ricovero per schizofrenia, insomma un TSO praticamente, un trattamento sanitario obbligatorio in quel di Croydon, e praticamente che colpì tanto l'artista, che però non aveva mai parlato così in prima persona di questo fatto, di questo tragico avvenimento, e decise dopo un bel po' di anni di parlarne appunto in questo pezzo, Jump Day 6. Tra l'altro il titolo dell'album fu ispirato dai fatti di Los Angeles del 92, l'anno prima, quando il ragazzo di colore venne massacrato dalla polizia di Los Angeles, scatenando poi i problemi, insomma, a Los Angeles. Esatto, e invece il pezzo che abbiamo ascoltato adesso è il primo tassello della rinascita artistica di David Bowie, è Real Cool World, brano che fece da colonna sonora per un film sulla carta rivoluzionario, doveva essere meglio di Chi ha incastrato Roger Rabbit. In italiano è Fuga dal mondo dei sogni, e le aspettative erano altissime. Il risultato no. Decisamente molto meno, il film è disgustoso, c'è veramente poco da salvare, tranne questo pezzo, e annesso anche scandalo sessuale che vide coinvolto David Bowie e Michael Jackson. Qualcuno forse si ricorderà, nell'estate del 1992 venne fuori questo gossip nei giornali scandalistici di mezzo mondo di David Bowie e Michael Jackson ritrovati a letto insieme da Iman, appena sposata David Bowie. Non si sa quanto ci fosse di vero, quanto di falso, fatto sta che per tutta l'estate del 1992 i giornali scandalistici sguazzarono su questa notizia forse inventata. Tutto fa marketing. Shaking man, a nation in his eyes, striped with blood and emblazed tattoo, streaking cathedral spire. They say he has no brain. They say he has no moon. They say he was born again, they say. Look at him climb, they say. Jump. They say, jump. get some time. I say he should watch his ass, my friend. Don't listen to the crowd say judge. Siamo ancora in diretta, 21 e 39 minuti primi, stiamo ascoltando David Bowie, questa che abbiamo appena ascoltato, l'abbiamo accennato, era la canzone dedicata al fratello suicida, un disco personale per un periodo travagliato, per una mega star come solo David Bowie è stato e pochi altri, magari sorpassato a sinistra nel suo trasformismo e continuo cambio di stile, inseguire le mode da altri, Michael Jackson stesso abbiamo detto prima, ma io immagino che molti altri artisti siano stati ispirati quanto a manipolazione degli stili, delle forme visive e musicali, tipo io penso sempre a Madonna, penso che Madonna senza David Bowie non sarebbe stata quella che è stata, ha avuto un sacco di impatto su tantissimi musicisti che a un certo punto negli anni 80 sono diventati, come dire, più bravi di lui. Sì, c'era appunto in questo periodo il problema di passare al passo successivo, cioè di aggiornare il discorso agli anni 90. C'erano troppi stili in giro anche. Sì, sì, sì. Non sapeva probabilmente più cosa, che pesci pigliare, la serie non c'era più uno stile predefinito, i tempi erano cambiati e poi c'erano stili che probabilmente erano anche troppo per lui, tipo c'era tanto hip hop, l'hardcore aveva provato già a esplorare con i Tin Machine, ma non gli è andato molto, molto bene, anche l'heavy metal era un miscuglio delle due cose. Insomma, si trovò un po' spiazzato e tornò un po' sui suoi passi, infatti riprodusse il disco con Nile Rodgers, con il quale aveva lavorato nell'83, esatto, ai tempi di Let's Dance. E alla chitarra ritroviamo Mick Ronson, il suo chitarrista storico del periodo Ziggy Stardust, tra l'altro nel suo ultimo album, perché di lì a poche settimane morirà per un tumore, avendo prodotto soltanto pochi mesi prima il ritorno discografico di Morris, Your Arsenal, di cui David Bowie farà una cover in questo, una specie di instant cover in questo disco uscito pochi mesi dopo. E we'll be right back. E questo era You've Been Around, il pezzo che apre Black Tie White Noise dopo l'intro The Wedding, strumentale, pezzo originariamente composto per essere un sottofondo al matrimonio, alla cerimonia di matrimonio di David Bowie, e questo è invece il primo pezzo cantato di Black Tie White Noise. È una specie di edge di David Bowie. Il succo del discorso è che David Bowie è ancora qui tra noi. Il testo è narrato in seconda persona: you've been around, sei stato in giro, ma praticamente sei stato in giro è lui. Nel pezzo si autocita, tra l'altro, e avrete sentito che l'ultima strofa prende proprio di peso il pezzo Changes di qualche decennio prima, riaggiornandolo al discorso attuale, cioè attuale allora, il 1993. Diciamo che questo disco comunque non ebbe il successo commerciale, perché l'etichetta, la Savage Records, fallì di lì a poco. Comunque un'etichetta che stava sempre sulla soglia del disastro economico, e il disco purtroppo ne subì le conseguenze. Però il David Bowie non si perse d'animo. Subito dopo, qualche tempo dopo, fu scritturato dalla BBC per la colonna sonora di una miniserie televisiva, appunto, trasmessa dalla BBC, e era The Buddha of Suburbia, insomma, il titolo in italiano è Il Buddha delle periferie, e, insomma, tradotto anche in italiano dell'omonimo romanzo, appunto, di Hanif Qureshi. Però c'è da dire che praticamente soltanto un pezzo di quest'album poi fu davvero messo in onda nella miniserie televisiva, quindi rimase più un disco musicale che una vera e propria colonna sonora. Tra l'altro, comunque, una colonna sonora molto bella, a detta anche di molti critici musicali. Che, se non sbaglio, Rosario, David Bowie poi era buddista, con una fissa particolare per il Tibet, eccetera, o sbaglio? Beh, no, gli artisti con la fissa del Tibet ne abbiamo anche parlato qualche sono puntata. Sono pure troppi. No, i Beastie Boys ci stavano in mezzo sicuramente, perché ne abbiamo parlato recentemente. E, sì, buddisti, artisti ce n'è parecchi, insomma, adesso non... Dico, ma David Bowie in particolare, cioè... Bowie lui era al minimo della fine degli anni 60, sì, quindi... anche perché veniva da quell'underground, da quel sottobosco culturale londinese che aveva d'avanguardia, dove molti avevano abbracciato il buddismo. Però, nonostante questo, segnalo una cosina che un po' di mesi fa disse una certa Lady Gaga, ringraziando tre personaggi abbastanza famosi ai tempi, tra cui un certo David Bowie, Prince e Madonna. Beh, Madonna. Lei sicuramente senza quelli proprio non esisterebbe, sì, però di sicuro. Ho paura che Madonna ci stia toccando ferro dopo questa dichiarazione, visto che ho guardato un po' sfiga, mi sa. No, ma spero, Madonna ancora è viva, lasciatela stare. Ma la Madonna, te l'ho già detto, Rosà. È per questo. Va bene, dai. Oh, Beh, questo suo autocitarsi non finisce solo nel citare se stesso, ma cita un intero periodo musicale, anche se la forma è quella della new house, della parte melodica della house, dell'acid jazz, dell'hip hop che stava andando in questi inizi degli anni 90, ma cita se stesso e cita anche i Cream, quello che avete appena sentito, I Feel Free. Originariamente era un brano dei Cream, che già era stato coverizzato da Belinda Carlisle negli anni 80, e a questo proposito non possiamo non citare American Psycho, che dà il nome al nostro programma. Esatto, precisamente, la cover di Belinda Carlisle negli anni 80 era diventata persino più famosa dell'originale, perché era un'artista veramente famosissima e conosciuta a livello mondiale, tanto da meritarsi una citazione nel libro di Bret Easton Ellis, American Psycho, che cito alla lettera nella vecchia traduzione di Pier Francesco Paolini: nel frattempo il pubblico del club è cambiato, adesso vi sono più punk e rockettari, più negri, meno gente di Wall Street, più ragazze ricche e annoiate che vagolano qua e là. Anche la musica è cambiata, non più Belinda Carlisle che canta I Feel Free, bensì un negro che latra, se odo correttamente, una roba intitolata Her Shit on His Dick. A bordo un paio di ragazze della ricca borghesia, due corpo duro che indossano entrambe vestiti pacchiani, imitazioni di quelli di Betsy Johnson. Io mi sento oltremodo carico. Attacco con una battuta del tipo musica ganza, eh? Non ci siamo già visti da qualche parte? Una delle due sogghigna e fa ma tornatene a Wall Street, e l'altra, che porta un anello alla narice, aggiunge fottuto yuppie. Put his arms around me. Let him put his hands together. Reach out over race and E questa era Black Tie White Noise, la traccia che dà il titolo al disco, e nella pratica un altro esempio di riaggiornarsi che ha David Bowie, nella pratica parassitando altri stili preesistenti e cercando di farli suoi. Questo è il rap, il soul secondo David Bowie, e ha preso un artista R&B come featuring, e doveva essere il vocalist chiave di questo pezzo, e ci ha costruito un brano ispirato alle rivolte di Los Angeles nel 1992 in seguito all'assoluzione dei due poliziotti bianchi che pestarono a sangue Rodney King. Il risultato l'avete sentito, è una miscellanea di roba che difficilmente è classificabile o descrivibile in altri modi se non un misto. E questa era Night Flights, una delle tre cover presenti su Black Tie White Noise di David Bowie. E la versione originale era dei Walker Brothers, il pezzo scritto da Scott Walker poco prima dello sbrocco che porterà a Climate of Hunter, uno dei dischi più oscuri della sua carriera, forse più oscuro perfino di Tilt e di tutti i dischi successivi. La passione di David Bowie per le cover verrà poi ricambiata molto presto, mi pare proprio nello stesso anno, da un musicista all'epoca ben più famoso di David Bowie, giusto? Beh sì, parliamo di Kurt Cobain, che nel suo MTV Unplugged dedicò un omaggio a David Bowie cantando appunto la cover di The Man Who Sold the World, insomma gran bel pezzo di David Bowie, e in acustico, fatto da loro, dai Nirvana, quindi un omaggio e una grande pubblicità per il buon David Bowie, che forse non se l'aspettava. Poi lui ringraziò, disse: l'avete fatta benissimo, insomma era tutto molto contento della cover eseguita dai Nirvana. Posta. Beh, in pratica ce l'aveva fatta con questo brano. Aveva reinventato la house a modo suo. Dopo 25 anni di carriera, Bowie, c'è poco da fare, era ancora sul pezzo. Mi sa che gli crucciasse proprio. Era come se in questi 5 anni si fosse perso di silenzio musicale a nome David Bowie, si fosse perso qualche pezzo musicale, qualche stile musicale, in questo particolar modo la house. E con questo brano ce la fa appieno a riprendersi e a ritornare, come dire, nello stile del momento. Sì, seguendo comunque dei percorsi laterali imprevedibili, perché nelle intenzioni almeno era stato concepito questo pezzo per essere un pezzo techno. Poi abbiamo visto, abbiamo sentito che le intenzioni iniziali vengono sorpassate molto presto e trasfigurando il brano in qualcosa di difficilmente descrivibile, se non come abbiamo appena fatto. Beh, sicuramente era un personaggio, non voleva rimanere indietro, no? Diciamo, le mode, cioè il genere musicale, lui comunque si tuffava, voleva sempre stare sul pezzo, appunto, e poi c'era comunque qualcuno che, insomma, grunge non ne faceva, però c'era qualcuno che era il paladino del grunge che gli dedicava il pezzo, quindi comunque era anche ammirato dagli altri artisti che facevano altre cose diverse dalla sua, ecco. Sì, e qui in questo pezzo c'era anche un rudimentale esperimento di campionamento. David Bowie campiona una frase di un telepredicatore afroamericano, che è il loop che abbiamo sentito, e un esperimento che verrà poi portato a pieno compimento nel disco successivo Outside, ma soprattutto nel disco dopo ancora, Earthling, che è praticamente la jungle secondo David Bowie. Ma stiamo parlando di anni fuori dal raggio d'azione di questo programma. Burning up each other's love, burning up our lives. Tried all kinds of work and a miracle goodnight. Future fallen empty, knocking on the door. Ragged limb and hungry mama, miracle no more. Turn it around, make it alright. Star, you're beautiful, a yellow diamond high. Spend you around my little room, miracle goodnight. Even flower all alone, puzzling capiche. Haven't got a death wish, just want a little more. Turn it around, make it alright. Nobody dancing. Miracle goodnight. Turn it around. Make it alright. Nobody dancing. It was only make-believe. I wished I was a sailor, 1,000 miles from here. I wished I had a future, anywhere. I love you in the morning sun. I love you in my dreams. I love the sound of making love. The feeling of your skin, the corner of your eyes. I long forevermore. I never want to say goodnight, miracle goodnight. Oh, turn it around, make it alright. Nobody dancing. Miracle goodnight, turn it around, make it alright. Nobody dancing. It was only make believe. Don't want to know the past. I want to know the real deal. Really don't want to know that. Unless we know, better we feel. Miracle. E questa era I Know It's Gonna Happen Someday, la terza e ultima cover da Black Tie White Noise di David Bowie. Come dicevamo prima, una cover di un pezzo di Morrissey uscito soltanto l'estate precedente, quindi una specie di instant cover. Il disco è uscito meno di un anno prima e è praticamente il testamento spirituale di Mick Ronson, il chitarrista storico di David Bowie, il periodo Ziggy Stardust, produttore del disco di Morrissey, il brano di Morrissey nelle intenzioni era un omaggio a David Bowie, quindi si crea un cortocircuito abbastanza impegnativo, cioè Morrissey che canta David Bowie e dopo David Bowie che ricanta lo stesso pezzo di Morrissey che rifà David Bowie. È un labirinto. Praticamente la serigrafia di una serigrafia. Sembra quasi pop art. Ma d'altronde stiamo parlando di David Bowie, ci può stare, anzi, magari l'ha fatto apposta. E con queste campane, non a morto ma di matrimonio, chiudiamo questa puntata di This is not an exit dedicata a David Bowie. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Bella. Ciao. Ciao. Buonanotte a tutti. Fai soul music, fai rhythm and blues, fai un po' così, cosa? Cioè, poi fai uguale.